Vieni qua, sentiamo che stiamo parlando come per pigliarti un caffè. Pigliati un caffè, pigliati. Ok, vabbè, solito lo so, per un saluto, dai. Antonio Prendi, ciao Antonio, e ciao anche a Giovanni di Sorso, c'è anche giù a Gianni. Bene, Antonio Riprendi, dai, so, per un saluto sono entrato, ciao, ciao. Calma Mario, una bomba sei qua, una bomba. E anche tu già stai bene, dai, già mi stai arrivando abbastanza bene qua a casa, dai, già lo sai dove abito, dunque stai alla distanza e ciò che andiamo, dai. Vabbè, zona ottava, Esatto, esatto. Ma l'amico Giovanni, mi conosce a me, sì. Chiedilo a lui. Giovanni. A ottava sì. Ora ce ne pure sì che ci conosciamo. Ma dove abitavi prima, la Terolce? Guarda, lì nella piazza. Nella piazza, dai. Ok, dai. Già, probabile che ci conosciamo, dai. Giovanni, riprendi e io chiudo, dai. Ciao, ciao, era solo per un saluto, ciao. Ciao, ci vediamo alle prossime. Ciao Marie, buon pomeriggio, buon tutto e buon proseguimento da San Pio da Sorso. Ciao, ciao, ciao, e avremo modo, ci sentiremo in prossimi mesi. Avanti a tu. Ho caduto, sì, così alta. Allora se mangiamo il bubone con la fumata, non c'è. No, perché già il bubone, adesso se prendi mezza, come ti dirizzi, tutto il mondo si prende. Scusate un attimo, Gianni, cosa hai attaccato? La soffetta, freddo ci avevi? Nel salone c'è freddo qua, quindi va giù la soffetta, la locomotiva. Allora, BV131, bene va. Va benissimo, già me ne sono accorto, dai. Va benissimo, ok, riprendi, ciao ciao. Quindi già arriva bene, là. A ottava già arriva bene. E quando ero ragazzino ci ho frequentato. C'era una signora anziana, zia Maria, non so così magari esiste ancora, era anzianella, era. Ok, già arriva abbastanza bene. Una bella modulazione, bella forte, già va bene, ok. Continuate ragazzi e quelli di per me, dai, da sopra un saluto, ciao. Riprendi Gianni. Ciao, ciao Mari, buon proseguimento, buona ricarica quando la fai e niente, ci sentiremo alle prossime. E andava per Antonio De Passi che si prende un tondo in tre con un bugone e tutti imbuttiti da fumata. Un disavame chimica o Iulia, un discrimine tu. Oh, so se. Beso, ti dai a rivolgere su due, su come ti ci decide. O Iulia, va a scrivere in mezzo al panino, ma da prendere la fame. No, sto seguendo il bambino, un attimino. Eia tu, eia, andava. Quindi Giova, cosa ti fermo canotti? Pure fumata. Non mi chiesi che l'hai detto, avevamo fatto questi fumati di leggini, rifatto, un po' di risale, come campagna, hai una prima che ti sei voglia. Ehi, già è buono, già è buono, già andava bene, leggero, sostanzioso, con tutti gli elementi, ti dà una carica, già va bene. Un fianco che lo spalmo è dopo sto raccontando, tutti sono stati tanto bene. Eia, ok, eccomi qua, sono un camaravaletto, va. Già va bene, già va bene. Ehi, dai, Giova, piano piano, piano piano, perché questo clima mi ha anche un po' così, pure un bel di gusti. Se vuoi una linea, se vuoi altre due linee, se papo di tutto canto che mi sia abbassato un trattore innanzi. Mannaggia, mannaggia. Ponete pure un po' di maionese, che sicuro che è più sapparato. Già è buona già così. Io che pure io, che mi ha comprato un po' di bumata che si dice, e me li sforzo. Io me li porto in casa a te, c'è un bel di voce, non ne compareggio no, anche perché sono pure già comparate. Adesso che te ci vuole, piglio la focaccia, ti faccio la fumata, tutto il tonno, sicuro tutto dentro. Origano, c'è un poco di mozzarella, origano, tropieggio e via. È una trippiadetta di maionese, no? E pure chi sa di buono, questo ho inteso. Hai inteso, vai inteso. buono è. Anzi, io lo so, ma se me lo porto mi ripulso. Tipo con quel pollo, lattuga, pollo, lo sai, va subito a sacchettini, a pestareggio, lattuga, pomodoro, olio d'oliva e appena appena di maionese, micidiale, proprio se lo mangi con gusto ci sacchi anche. Però magari tutti l'hanno fatto con la bumata e con il gozzo, va un altro sapore più naturale. Sì, no. Io me lo c'è. Io me lo so fare in casa. L'ho dimostrato un po' di voce. Allora, tutti i giorni vi so a Sassari. Sarò che se andate a comprare questa cosa già fatta, sono anche buone, sono una presenza fattiva. Cioè, c'è più un capitale, vero? Invece io meglio che ti chiedi i focacci manni, meglio. Me li porto in casa e ti bagno. Però mi la giumina più fattivo, taglio la buata e coso. E ne fanno un bel po', Ma ne posso burumanni, ne posso gli si bani, gli si focacci manni manni. Li taglio tutti i canti a pezzare e li porto come te. Se no si si fa la baga, la mano d'opera gocciami a fare gli si gocci. Ti credo, anda bene. Se no ti bisogna i canti bolletti, ti buoni in forno con 4 giri di battato, belli a vedere. Uiuia, e da me ho capito una gommetta di vino. Pido una boccia, ho brutto, pido una boccia. Ja, va bene, già si può fare, vero è Giovanni Variadini in campagna, non capisci che ne gatti una e parla in forno, ma te, se non arriva lì. Ah no, ha buddito. Vai in forno. Uia, buona vita lì. A vedere se buone gli dici di, come si chiama, rosmarino, quel passato sono di qua, questi fatti qua, quelli già sono buoni. A tutti i gusti che si chiede un pareggio non esiste. Se non esci i croccanti in forno non sono buoni. Non intendi di pollo impanati, vai. Allora, che si risorse sono buoni. Era più bigliardi, qualche cosa che era già avuta, che non la ciappi sempre. Cazzo, altra cosa, O quelli di Palledoria, c'è bisogno di prendere la roba del... Io sono sempre stato fissato a pigliare la roba del loro burro. Perché chi ci dice, se possiamo prendere la roba di qua, li metterci in breci, andrà bene, ma se mangia di roba buona, non se mangia di roba tanta strana, no? Sì, la roba è no, che cucinata è più genuina, ma la giusta, anche più saporita e niente, c'è un altro sapore come questo, è proprio... è diverso da chi sta a imparare, da chi sta dalla Grecia, dall'Algerina, dall'Egitto, dalle... tutti canti, non vedo tutti questi africani che si affarrano con i cigni, e la calabria della notte il cocco, da buio e giulia. Trappa carità. Cosa ci puoi fare, dai, che sistema della politica, non hai visto? Casino, mi soffende con questi agricoltori che mi si arricchendono la roba da vola. E ci do un signore siciliano di calcio nel cassaggio, tutto quanto lo prospetto dell'arancio, una figata molto seca, l'arancio, tutto il resto affattabile da quel trattore. Ha detto che pagavano una miseria, fa pagare una miseria, ha detto che veniva tutta attenzione in campagna. Ha fatto. Cioè, ma non è giusto, cazzo. Non è giusto fare cose del genere. Sì, ma che, cioè, secondo me dovremmo fare, fare le cose, non dare un cavolo a questi qua, a questi grosse produzioni, di arrivare all'aranzo, vado a pagare un euro, fa di, a 50 centesimi non ti arrego, e me lo paghi così. Se no l'avevate tutti i canti alle frutta e verdura, manca la gente, è un bel strana, che è un casino. sono buone, sono quelle sanguigne, un po' rossicce dentro, e hanno quel gusto con le vitamine piene e sono buone. E invece le importano da Fura, che non hanno né sapori né profumo e niente. E in più la Maribu gara, è famosa la buba, ha fatto una frutta che non ha né gusto né sapore. Ma lasciamo perdere, lì da te la mangi, la imbucci te la mangi a mosse, te ne mangi due o tre, pure se sono un pochino più piccole, però è roba genuina di qua, e non è fatta con fertilizzanti come se si stessa roba di una regione. Aio, ma stiamo scherzando. Adesso questa cosa anche della carne di cavallo, che il cavallo è un animale da compagnia, il gatto. Ma erano i gruppi di giganti molti che si stavano in fili. Sono abbastanza già rampato, mi sentavo di comunità, questo da distributivo. E tu devi dire fuori di due, da dare in due. La tua macchina, tu dovevamo portare la mano di tutti quei buglioni. Cazzo mi leggevo con il bagnano di vita, tu quindi tu il coso di benzina a parte, colui, non so se mi fa più che chiamano di tutto qua per tu fanno. Lo so, non è noioso però. No, non andava così. Non va bene, cioè, la roba. Ma infatti, io, lo so, cioè, secondo me che la roba da cura non è di finita. Cioè, devono andare da chi ha campagne, da chi pianta, devono aiutare quella gente lì, da aiutare, cazzo tu cosa sei a chilometro zero, io ti do la possibilità di avere un lavoro, cioè tu mi pianti, tu vai sul terreno, sì, mi pianti, tot di piante io ti ribago, e quindi la roba nostra, la roba genuina, devo andare secondo me da tutti i campagnoli, e però come lavoro, cioè, come lavoro, tu puoi piantare così, ok, tra, cioè, dare una mano un po' a tutti, e dica chi ti buca lì che viene in lavora, cioè, lasciali stare, o no, o sbaglio, cioè, devono fare qualcosa a chilometro zero, e tutti quanti gli dici che vengono dai Marocchi, dai cose, capisci? E allora, quella roba lì non serve, chi sa buca malnutrizione, ma tu immaginati che tipo in strada, no, qua in zona, quando c'era qualche urturano di Mugussini, e gli si travagliavano in campagna, per trovarvi la cassetta dei finocchi, chi vendeva l'uva, chi vendeva ravanelli, roba portata da campagna, fatta ai nomi, genuina, loro. Ma non puoi vendere più nulla, chi no, non fai la licenza, stai vendendo in nero, chi sei chiedo. Ma che dire, quindi hanno i baffassi due citti, i baffadini, e vivevano giornata per la giornata. Adesso non ci può più fare, quindi per quello che non ci sono più né agricoltori, usurani, massai. Ma chi prima che va via Rubocco, chi fa via la sacchista, va via gli spottatini, i figosi, le rotolate, e magari una mano lava l'altra, e lui gli dà via un sacco di farina, che via va di magina di grano, e gli dà una cosa. E adesso queste cose non si possono fare più, ma chi all'inizio di Fagini vivevi più bene, era più naturale la cosa. Adesso con tutte queste importazioni, tutti tanti che si fa mercati, tutti quelli di la mafia che viene, ovvio che non c'è anche più chi lavora le campagne, ed è quello che fa infastidire, perché prima per esempio chi aveva i figli, eccetera, il coso parlava di una campagna, di dare un babbo, di dare un nonno, aveva se tutti a telefono in mano, tutti che non comprendevano l'accidente. e poi cosa fanno? Quasi di una che si sarebbe fare i tenelli che hanno arrestato in Sassari, emulando tutta la festa io di Mara che mi so fudere. Ah, io che stiamo andando e siamo indifficati pure dai figli. Prima, cioè, anni fa, per niente, che ha campato una famiglia con queste cose, con la campagna, anche andavano in pindiani e per rubare il pane a vapore fa, partita IVA, regolare, che si capo va a lavorare, che si multinazionale, che l'abbia abbigliato e che l'abbia con te. Cioè, abbia bruciato ognuno che un pensamento che canto per me. Cioè, chi si gana i maniatori, quelli da fuori a comandare, no? Che, invece no, prima avevi la campagna, ti prendevi quella frutta, ti prendevi i pomodori, ti prendevi questo, è vero, Romagna fa tutti, lo prendevi anche a quanto dovevi vendere. Allora, e se c'è la zurrata? Ah, ma carità, cazzo di pignettone, pignettone che c'è gatto di fumata, vedi, da questa bucaria, da supermercato, un vassalore di nuda. No, no, veramente qua. Non hai visto, sì. Guardini, prima in una iana, aveva chi dai vendia l'uva, aveva chi tu che vendia la figa, aveva chi tu vendia la cavafiori, la fumata, e tutte queste cose così. E le prendevano nel giusto, perché di guadagnare noi aveva di guadagnare più di tanto. E tornando fuori al discorso, c'era quello che aveva maialetti, gli agnellini, facevano tutte le cose caserecce che erano buone ed erano genuine. Adesso con tutte queste farine trattate, c'è tutti i nati, tutti i ciliegi, tutti i nati che hanno problemi. Hanno rovinato il mondo, hanno rovinato l'esistenza. Cioè, hanno rovinato tutto. Si dovrebbero vergognare come stiamo vivendo, si dovrebbero veramente vergognare, per carità. Perché lì, anzi, come è tutto business e poi mangiano anche male, mangiano male, le hanno arrivato tutti i McDonald's, chi vende da solo. Non fanno bene queste cose. Prima invece tu vai a casa, ti fai un barino, con la mussarella, con la mostella, con la sveglia, e giù bene in carriera con un ballone, con la bicicletta, va, non ne conoscono più queste cose. E andati a Caccarivari o a farti la bucchita a Baru di Arasco, tu, e a Napolicino di Arasco, tu, avanti. Quanto me la puoi pagare? Aspetta, ho regalo all'albuio e regalo se me la dai, sì. francesi, fumata buona, finita fuori di pure, lui ha una fumata aperta. Certo, ma a me vuoi dire che si cacciata, non è sul guasto. Ma ti ho rompito le palle, cazzo, ti pigliato la moto già fatta, ha lavorato su, pure la rifugione, dice non ne posso più. 19 ore già faccio corso, la sua va a me, è tu. No, te ne piglia più, mi dici praticare, ma è giusto, cazzo, è tutto buono praticare. E allora non so, prima munia ne fava, mi siedo, faccio lo dondo, e poi come è tutto il pomodoro in campagna, parava a campagna, nella della vita la marcia, una bomatta della magnavi, così era selvaggia, con una regga era. Allora, va, ti mangi una bomatta, non ha né sapore né odore, come entra di tantuno. E tutto un sistema sballato. Perché anche tipo cava via ragnoniti, cava via ribrigo e rugoso, quasi alla riguta, lo riguto muffio. E la sera magari ti mangiamo queste riguta muffia con la sartista, un bicchierino di vino, e le bedarete erano che si dempino. E devi anche soddisfatto quando ti mangiavi quella cosa così, tipo a merenda, o magari se non avevi voglia di cenare ti mangiavi un pane con fine, con questo disagio. E erano cose belle a chi, e gli anziani hanno visto di esempio questa cosa. Ava sono tutti abituati a Rugoso, alla nuova era, come si dice niente, a due anni di dire siamo antichi. Ti sento basso adesso, Giovanni, cosa hai toccato? Io non sento, cosa è successo? Ma non lo sento, lo sento ben basso io adesso. Per avanti. Ma non ti sento. Bene a tu. E dimmi. A Giovanni lo senti bene? Sì che lo sento, ma non che va lo squarcio attaccato. No, vedo giù a zero io lo squarcio. Ma come mai non lo senti? Non lo so, forse c'è qualche QRO, QRM in giro. Strano, io tengo bene. Allora, non so, non è in giro, non è in giro, non è in giro, non lo capisco. Boh, non lo so. Poco a poco. Ma io lo sento, no. Problemi, non ho capito perché. Non lo so, aspetta che prendo una bottiglia d'acqua, perché lui mi porta l'acqua a campo. Scappa. Oh, strano. Oh, che ti sto sentendo io. Oh, mamma mia, che obiettivo. Oh, mamma mia, ma tu bene mi senti lì? E vabbè, ci sentiamo dopo. Ho capito se è caldo l'apparecchio, se è a posto. Allora andava bene. Boh. Vabbè, aspetta che vado da Gabriele che dice mamma mia. Vabbè, ti chiamo dopo al limite. Ui, la canta è buona, le va a E avanti. Chi è? Io sono già, c'è anche il Giovanni. E gli amici, uno è sulla leva. E la radiolino ha acceso. Io sì. Gianni, non lo senti? Gianni! Dimmi a tu! Ma non lo senti a Giovanni? No, da poco fa non lo sento più. Prova adesso a vedere. Non è che ti sei un po' abbassato, non capisco che cazzo è successo. Controlla il PL dietro, non ci sa mai. Dimmi a tu. Ehi, dimmi. Ho detto magari, non lo so, il microfono, qualche cosa, no? Poco fa lo sentivo, almeno a me di tu pari lo sentivo bene. Adesso, in questi 10 minuti, intendo mio meglio, non comprendo cosa mi dicendo. Ma in effetti si è un po' abbassato di segnale. Ma ha già compreso cosa sia successo. Boh. L'avrà già controllato. Quando fa a fare con lo strumento controllo tutto. È un è strano, vai la cosa. Ma che si dà sta poco male alla radiolina. E niente, magari non lo so mio, è fan di Luritori e è tipo la nebbia e non ce l'ha fatto pagare il segnale. Prova va. Ma tu non ce l'hai quella radiolina tipo PMR come ci diciamo? Dall'altro che mi hanno facciato la fuori. Oh, ciao. Cos'era? Mollato il PL era. Arrivando saggia. Strano. Allora domani lo controlliamo, voglio comprendere cosa va. Che strano, cazzo. Domani fare, andare con lo strumento e controllo a vedere cosa va. Cioè. Che marazzucchi l'hai pigliato. Sì, sì, l'ho messo bene, ma mi pare un po' carino che si è inventato nei parametri, e già vedi. Sì, no, già stai arrivando, già. No, c'era della trintuia. Ah, ma poi demo domani. Oh, non mi interessa, no. E quindi, se non andiamo a mangiare o se non andiamo a dormire, va. Scappa. Io tra un po' chiudo la trasmissione, anche se devo far dormire a Gabriele, se no fate il casino. Ehi, infatti, immagino. Vabbè che già si dromene tutti, mi si sostanza la di giugliende e spendi, come si è potuto usare la luce nel mondo delle favole. E va bene così. E anche io mi gira tu. Io la so, e sa vedere il telefono, e sa vedere. No, ma c'è presto ancora. Però, insomma, oggi mi figlio della biocca. Forse chi non venne giù. Strano, capo, che non arrivi. Domani lo controlliamo, mi pare strano. Oh. Mamma mia, che bezzillo. Prova magari a attaccare un microfono, Gio, vai a turare l'attaccare. Ciao, te lo sentiamo. Ehi, sto chiudendo già, c'è la prossima, ciao. Ehi, ciao a tu, alle prossime, buona ricarica, buon tutto. E salutami a Gabriele. Ciao, Gabriele.